Radio 24. Libera la voglia di fare. Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Sì, la prima è sempre la più importante, con questa formula lo è ancora di più. In pratica domani ci giochiamo un ottavo di finale. In questi mesi ho parlato con i ragazzi, non ho dovuto convincere nessuno, come ho detto nelle scorse interviste, perché ho visto nel loro sguardo la voglia di venire a tutti i costi. Quindi li ho messi davanti all'evidenza dei fatti, sul fatto che nessuno della nazionale A si deve sentire sicuro di giocare. Se non fa quello che comunque gli chiedo, rischia di andare fuori. Quindi c'è cioè, rivincere da parte di tutti quanti e tantissima disponibilità, ed è per questo che mi hanno così anche sorpreso, perché giocatori che stanno in nazionale A da diverso tempo, voler venire a tutti i costi a un europeo, insomma, è una vittoria per tutti noi. Eccoci qui, 17.08, rigorosamente in diretta. Buon pomeriggio a tutti, ovunque voi siate. Per fortuna c'è anche il calcio giocato e adesso ne parliamo. Questa sera ore 20.45, Danimarca-Italia, Cracovia. Inizia il cammino della nostra Under 21, bella, carissimo storia, Carlo, nell'europeo di categoria. Però vediamo subito il menu, perché in questi minuti sta cominciando a parlare Mino Raiola, che racconta la sua verità sul caso Donnarumma. Noi siamo qui pronti ad ascoltarlo e vogliamo anche sapere cosa ne pensate. Si intrecciano la nazionale, appunto, Under 21, che è una delle migliori edizioni che possiamo ricordarci, da quella di Viale Mancini a quelle vincenti che poi hanno costituito l'ossatura dell'Italia dei grandi. Se sarà bella lo vedremo fra due settimane, vedremo dove sarà arrivata. L'ottimista. Allora, dicevo, la verità di Mino Raiola, e noi siamo qui per riportarvela, vi aggiorneremo in diretta, ne parleremo anche con numerosi ospiti da qui alle 19, perché questa è una ferita ancora aperta, è un tema che continua a far discutere. Sanguina. A proposito, vi do tutti i nostri contatti: 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp. Però, come detto, oggi fortunatamente il pallone è rotto. La saluto Vanessa Leonardi, inviata di Sky in Polonia per l'Under 21. Ciao, che Vanessa. Piacere. Ciao Vanessa. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Allora, questa è o no una delle più belle Under 21? Vanessa è giovane, non è che può ricordarsi di quelle di Vialli e Mancini. No, ma me le sono fatte raccontare, però ho visto poi tutti i video, essendo così giovane. Sì, ho studiato, non avendole viste dal vivo, vista la mia giovane età, è logico. Quindi mi sento più vicino a questi ragazzi, ovviamente. Però sì, è la più bella, la più forte, non lo so, lo vedremo, perché lo devono dimostrare sul campo. Però se guardiamo la formazione che dovrebbe, insomma, scendere questa sera in campo, sono tutti giocatori, 7 sono giocatori che sono stati chiamati da Ventura in nazionale maggiore, altri sono nell'orbita di Ventura, hanno fatto gli stage, penso anche a Petagna, a Chiesa, a Caldara, insomma, quindi è la nazionale del futuro. Stiamo parlando di ragazzi che faranno la storia della nazionale italiana del futuro. Io trovo che la Federcalcio abbia fatto benissimo a voler portare a questo europeo il meglio. C'è qualcuno che ha notato come magari la qualificazione l'abbiano fatto altri ragazzi, questi adesso vadano a giocare l'europeo, oppure che qualcuno potesse essere tenuto a riposo per poi presentarlo per Ventura a settembre. Però secondo me tu i segnali li devi dare di crescita del movimento, e questo è un campionato europeo importante, Vanessa, no? Sì, sì, ma non a caso Ventura è qui. Ventura è arrivato ieri, sarà qui alla partita di questa sera dell'esordio della nazionale Under 21, proprio per far capire che questo cammino insieme deve continuare. I giovani devono crescere attraverso le nazionali come l'Under 16, l'Under 21, insomma tutte le giovanili, fino ad arrivare alla nazionale maggiore. Deve essere un percorso continuo, un po' come fa la Spagna. Infatti guardate che nazionale ha la Spagna. Quindi secondo me è molto bello il segnale che è stato dato, perché fa capire quanto la Federcalcio, ma il sistema calcio, punti su questi ragazzi, punti perché crede che possano arrivare fino in fondo. Quindi avere i migliori, e veramente ci sono i migliori, non c'è Romagnoli perché è infortunato, ma altrimenti anche lui avrebbe fatto carte false per esserci. Meritano di essere qui e vogliono dimostrare che hanno avuto ragione la Federcalcio a volerli, magari gli farà un regalo a Tavecchio, lì poi gli regalano la coppa e alla fine. Molto ottimista, Vanessa, brava. Guarda, intanto ha scritto un amico: 349-238-6666, Genta, due punti aperte, virgolette, la miglior under 21 di sempre, chiuse, no, virgolette, come l'Ital Basket quando ci raccontava che avrebbe vinto tutto. No? Vabbè, con me sono sempre cattivissimi. Ha una striscia di gufate oramai infinita. Con me se la pigliano tutti, Vanessa. Quando c'è Pardo, saluto particolare a Pierluigi. Guarda, che sono qua tutti i giorni, voglio dire, da 20 anni. Non ho detto questo. Ho detto una delle che nazionali. Appeal è una delle nazionali under 21 che potrebbe essere traghettata direttamente alla nazionale maggiore, alla nazionale maggiore, come non capitava da tempo. Come? Comunque ne fanno parte. No, ma infatti, Gagliardini fa parte della nazionale maggiore. Bernardeschi, Pellegrini, Rugani, Donnarumma, cioè, ma non da comprimare. Non è che stiamo inventando. Potrebbero essere titolari della nazionale maggiore tra un anno, quando i giochi si fanno pesanti. Allora, per raccontare agli amici a casa che questa sera seguiranno, io spero, numerosi Italia-Danimarca, la formula è spietata. Quindi questa sera non è che si parte morbidi, bisogna vincere perché altrimenti rischi di chiudere subito, no Vanessa? Sì, perché passa in semifinale, vanno le prime del girone e la migliore seconda, quindi una migliore seconda. Il girone nostro non è facilissimo perché c'è la Danimarca, c'è la Repubblica Ceca e poi c'è la Germania alla fine. La Germania ha dato i migliori alla nazionale maggiore per la Confederation, però è la Germania. È sempre tosta da affrontare, quindi arrivare a quella partita con due vittorie non sarebbe male, perché se vinci oggi e poi vinci mercoledì, insomma, non sarebbe male arrivare a 6 punti contro la Germania, però ecco, partire col piede giusto, perché se già perdi o non vinci stasera comprometti molto. Tu devi arrivare come migliore seconda, poi magari arrivi come prima e la Germania non oggi sì, vabbè, però gioca le 18. Togliamoci subito la scimmia Germania, Vanessa, perché insomma, noi possiamo toglierci quello che vogliamo, però 2 anni fa ci siamo rimasti scortati. Però la prima volta è successo, è l'occasione buona per ristabilire delle tradizioni che ci piacciono un po' di più. Senti, si è parlato un pochino almeno del caso Donnarumma lì a Cracovia, no? Sì, leggermente, ma poco. Sì, ma figurati così. Sì, figurati. Ho fatto 400 collegamenti su Donnarumma. Sì, 400, abbastanza. Sì, da qua alla fine ne ho contati. Da qua alla fine, secondo me, diventano 4.000. Sì, mi sa di sì. Magari tenete il conto anche voi, perché può darsi che io me ne perdo qualcuno. Senti, Di Biagio non lo scaricasse, quindi per carità, che fosse titolare questa sera era ovviamente giusto, oltre che scontato. Ma esiste un piano B? Perché evidentemente la bufera in cui negli ultimi 3 giorni insomma è stato in mezzo Donnarumma è qualcosa che sulle spalle di un diciottenne potrebbe sentirsi, e sarebbe fisiologico, naturale, un momento di crescita, ma può anche essere un momento di delusione. Cioè, cos'è che si dice nell'ambito della nazionale, dello staff? Ma secondo me, non solo secondo me, insomma, però la partita di questa sera non è fondamentale soltanto per l'Italia, perché se vinci sei già a buon punto, ma soprattutto per Donnarumma, perché fai una grande partita, l'europeo è in discesa anche per te, perché con tutto quello che è successo, con tutta la bufera, adesso poi oggi parla anche Raiola, forse proprio il giorno dell'esordio dell'Italia e di Donnarumma, non mi sembra una bellissima coincidenza, non mi sembra però una grande idea, no, però ecco, comunque se lui questa sera fa vedere a tutti, fa il Donnarumma, cioè fa il suo, il fenomeno che è, secondo me per lui anche psicologicamente è un europeo in discesa, è una crescita, come ha detto Di Biagio, personale, pazzesca, perché vuol dire che tu sai reagire e reagire benissimo a un momento di grande difficoltà, perché comunque è vero che sta a Cracovia e questo l'ha aiutato sicuramente, Di Biagio lo sta aiutando tantissimo, perché comunque ci parla, ci scherza, sa, un po' alla romana, no? Gli fa le battute, l'ambiente, tutti i giocatori, i suoi compagni lo stanno coccolando molto, però è anche vero che i social arrivano pure qui. Sì. E quindi sì. Quello che poi ci sono state le polemiche, anche qualche insulto di troppo gli è arrivato, quello gli ha fatto molto molto male. Quindi cioè, secondo me questa partita è decisiva non solo per l'Italia ma anche per Donnarumma. Sì, vediamo poi la Danimarca quanti tiri in porta riesce a fare, perché abbiamo speriamo zero. Una difesa anche perché abbiamo un bel centrocampo, ma una bella difesa, insomma. Va bene, noi ci fermiamo qui per il momento. Grazie, Vanessa. Poi torniamo a parlare anche dell'Under 21. Grazie a Valessa Leonardi, inviata di Sky Sport. Ciao. A prestissimo, Vanessa, grazie. 800 24 00 24 c'è chi preconizza papere di Donnarumma, l'Italia non arriverà nemmeno in semifinale, sarà un fallimento, ragazzi. Cazzati, tranquilli, del Milan, tranquilli. 800 24 00 24 ci sono già Marco da Pavia e Aziz dalla provincia di Modena. La seduta rimane aperta fino alle 19. Sono arrabbiati secondo te? Ma tutti convocati. Lo ripeto ancora il numero 800 24 00 24. Chiamatevi, prenotate, intervenite fino alle 19 oppure 349 238 6666 per i vostri sms e WhatsApp. Adesso parliamo con un grande tifoso del Milan. Intanto Marco da Pavia. Marco, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Vai. Milanista, simpatizzante della nazionale di Donnarumma, che possa diventare portiere titolare ai mondiali prossimi, quindi con la speranza che se la via dal Milan vada in una squadra dove possa giocare. Il mio commento sulla vicenda resta il fatto che praticamente ci si appassiona di calcio quando si vedono un po' di bandiere, simili bandiere, quindi diciamo che questa vicenda mette un po' l'amaro in bocca, ma oggi non bisogna stupirsi di questo. Probabilmente Donnarumma non è consigliato male dal proprio agente che fa il proprio interesse, ma da chi veramente lo vuole aiutare in qualche modo, non gli consente di fare un passo che secondo me poteva essere un'ottima occasione per lanciarsi in una squadra che sta nascendo probabilmente anche abbastanza forte. Cioè, quindi quello di restare, ma io credo, perdonatemi, che non sia il tema di dire se esistono ancora o no le bandiere. Non esistono, ma non è che l'abbiamo scoperto giovedì sera, perché Giovanni. Donnarumma non ha rinnovato con il Milan. Il tema è stata la scelta giusta o no? Aspetta che intanto saluto Ringo che ci ha raggiunto. Ciao. Eccolo ciao qua. Ragazzi, ciao. Allora, ci dai 30 secondi che sentiamo anche Aziz dalla provincia di Modena che è lì che ci attende. Poi Aziz. Esplode Ringo, io te lo dico, Giovanni. Sì. Vai Aziz. Bene. Pronto, buon pomeriggio. Dai. Allora, io mi chiedo una cosa, ma Donnarumma e lui se non ha voluto firmare il contratto per il problema di ingaggio? Ma se il problema di ingaggio, perché il Milan, la società Milan, non le ha offerto quello che vuole, 10 milioni, 8 milioni, poi lo mette sul mercato, visto che a questo punto le perde a parametro zero, a 20 milioni, perché ha un anno di contratto. Sì, vediamo. Ma non credo sia stato un problema di soldi nel senso di stipendio, poi magari scopriremo anche questo, Minoraiola sta parlando adesso, appena abbiamo notizie vi diamo tutti gli aggiornamenti. Ringo, io non credo sia stato un problema di soldi nel senso di stipendio. Assolutamente no, perché soldi, ecco, c'erano. Come la leggi tu questa storia? A me sembra curiosa, cioè, ma che mi sono rotto le balle di gente che viene nella mia squadra per quei colori rosso nero, come c'è chi ama la Juve, l'Inter, no? Ognuno ama i propri colori, e viene, si spaccia per colui che dice Madonna, amo questa maglia, amo questa società, e poi dopo alla fine si comporta come si comporta. Ma lui aveva tutto diritto di andare a prendere il contratto che voleva, giocare con Ronaldo o giocare con Chiellini, cioè ci mancherebbe, due squadre enormi. Secondo me ha sbagliato la forma, ha sbagliato a non metterci la... Io quando faccio i miei tweet o vado sui social metto la mia faccia, quindi se sbaglio al limite sbaglio, però ci sono io. Lui a 18 anni non ha ancora imparato a mettere la sua faccia, quindi è qua. Cioè tu ti aspettavi che fosse lui a dire scusate, ho cambiato idea, anche se ho baciato allora, la maglia, anche se voi... ho fatto l'intervista GQ dicendo quello che ho detto 5 giorni fa. Allora. GQ, lascia il tempo che trovo. Io vengo da voi 3 o 4 quando siete di studio, dico ragazzi, ci siamo voluti bene per 2 o 3 anni, mi avete aiutato, mi avete lanciato, adesso la possibilità di giocare con Ronaldo o la possibilità di andare al Madrid. Voi cosa mi dite? Vai Ringo, cavolo, ci mancherebbe. No, io ti avrei detto il contrario. Esatto, invece. Anch'io, no, ma razionalmente, razionalmente ti danno un contratto che no, 4 milioni l'anno non è male, no? Lo firmi, sei il beniamino di San Siro, il simbolo del nuovo Milan nascente, nessuno ti mette grandi pressioni, perché nessuno ti mette grandi pressioni, ti fai, hai, dice, bravo, bravo, hai due stagioni, perché fai, te ne devi andare, dici, per, no? Ti fai due stagioni da titolare fisso, da, con tutti gli onori, perché e poi vai dove vuoi, e poi vai dove vuoi, ragazzi. Il problema del Milan, io parlo per la mia squadra, è un mio pensiero personale, non, nessuno me ne voglia. Noi dopo il fattaccio Maldini abbiamo rotto l'incantesimo, abbiamo distrutto uno stadio, una tifoseria che ha infamato una curva, la curva che si comporta male con quello che è il sangue del Milan, l'essenza, i Maldini, la famiglia Maldini. Da lì sono passati 6 anni, abbiamo combinato una mazza, sono successi di tutti i colori, è lunga, dobbiamo riprenderci come tifoseria. Dobbiamo riprenderci come società, se mai si riuscirà. Però certo, questo è stato un colpo basso. Io, su di lui la società nuova, benché si possa criticare, voleva ricostruire. Un diciottenne che non ha vinto una mazza confrontato con il grande Milan, che cosa ha vinto questo qua? Niente. Niente, allora, niente. Che così bene, ha scelto la sua strada, ragazzi. Facciamoci la ragione e prendiamo un altro portiere. Ma quando verrà San Siro si beccherà una caterva di fischi, non ci dormirà mezzanotte e le passerà, nei giri di 2 anni li passa. Sì, credo che sia l'ultimo dei suoi problemi, ma secondo te, cioè tu sei di quelli tifosi del Milan che applaudono in maniera incondizionata il modo in cui questa nuova società ha gestito questa vicenda? Ma questa nuova società l'ha gestita con yogurt e frutta, l'ha gestita. Io dico, non ho preso la lingua, chi mi conosce sa che non mi nascondo mai. Non ho una società che ha 3 o 4 che stanno a capo, che sono ex Inter, ex Juve, non esiste. Però di balla, voglio i rossoneri, io voglio gente, non me ne frega che mi danno i soldi, mi hanno rotto le balle questi discorsi. Io voglio milanisti al Milan, gente. Berlusconi è venuto, crede, ha fatto quello che ha fatto e ha costruito, idem prima di lui i vari Rivera come campioni, Paresi. Cioè Fassone e Mirabelli non ti sono piaciuti? Ma non mi piacciono, che sono dei faccendieri, da Parisi. Però in tanti hanno detto, dei tifosi del Milan, che stanno facendo ritrovare dignità al Milan, anche tenendo la schiena dritta davanti a Minoraio. Ragazzi, non ci voleva molto dopo quello che abbiamo combinato. Scusate. Non è che ci voleva molto, Cioè, sì, ragazzi, ma che avresti preso? Cioè, l'unica squadra al mondo... Si è fatta fischiare perché la curva ha fischiato il proprio capitano che si ritirava. Ma certo, ma tu sai che ci sono delle storie. Alto tradimento, ma sai che ci sono delle storie dietro quella storia, dietro quella cosa lì. Ma scusa, ti rendi conto che tu dicendo così, scusami, non è una polemica a te. Questa storia è dire che ci sono delle storie dietro. Ha portato il Milan a essere quello che è. Basta con questa storia delle storie. Via le storie. Qui sono degli interessi di miliardi, c'è gente che guadagna dei soldi alle spalle di la maglia non è dei giocatori, i colori non sono dei giocatori, i giocatori vanno. I colori sono una serie che vanno rispettata, bravissimo. Piace, non mi frega niente a me di chi viene. Perfetto. Sai che c'erano state storie tese tra la curva e Maldini e tutto è finito in vacca in quella maniera lì. Chissà chi l'ha manovrata quella storia lì. Chissà, lo sappiamo tutti, chissà, no? Ma lo sappiamo tutti, no? Sappiamo tutti. Chiediamo spazio alle persone di gestire il Milan così, come quella con la storia di Maldini, come questa di Donnarumma. Questi sono. Cos'è cambiato da 6 anni? A Paolo, a Donnarumma, che evidentemente la società non c'è, non ne risolve una, non ne azzecca una. Sì, ma tu chi avresti messo lì? Ascolta, chi avresti messo lì? Bandiere? Avrei preso un nucleo di fidatissimi, cioè? di prima di tutto fidatissimi non vuol dire che non mi inchiappettano i soldi quando mi giro nel cassetto. Fidatissimi vuol dire che sono già a posto finanziariamente, ma che sono amanti del sangue del rossonero in Milan. Avresti riportato Paolo in società e questo l'avrebbero fatto, credo, il 99,99% delle persone di, con sì, un po' però di bisogna, bisogna essere capace di fare quel mestiere lì. Certo. Appunto, Albertini è uno. È un grande manager. Cioè, ha fatto il dirigente. È uno dei pochi ex che ha fatto il dirigente ad alto livello. Ho parlato venerdì con Leonardo. Io, uno che avrei preso subito, per esempio. Subito, Leonardo è una grandissima persona. Io lo rispetto, poi che anche lì. Gestito male, se ne andò all'Inter per dispetto, ma anche lì gestito male, anche lì gestito male. Ma perché gestire male così? Io non capisco, cioè, boh, sai perché? Perché si pensa solo ormai al soldo. Io lo so che ci sono i soldi, sono i milioni di euro, i diritti, le televisioni, le radio, ci lavoro, ma perché? Però anche un po' di esempio, Donnarumma, sai qual è la cosa grave che ha fatto? Non ha capito che lui in questa Italia di merda di suo periodo poteva essere un esempio per i giovani. Che cosa tu dici? Cosa vuol dire essere un esempio per i giovani? Non guadagno un euro. Ma invece no, a livello nel mio cuore e nella mia anima, essere un esempio per dei giovani sarebbe stato oro, diamanti. È una cosa di una importanza. E intanto che eri un esempio per i giovani, che dai prendevi anche i soldini, perché 4-5 milioni ti fa mica schifo, eh. La pizza te la mangi sabato sera, ecco, con quella cifra. Dammene senti, io voglio rimanere, mi vuole la Madrid e la Juve, però voglio rimanere. Dammene, loro me ne danno 10, dammene 6-7. Poi tra due anni hai 20 anni, ne vai a prendere 15, non è un problema. Peccato che i Maldini esordì 13 anni, Rivera a 16 pure lui con la maglia del Milan, tutti. Ce ne sono mille, io adesso ho menzionato i del Milan, ma io rispetto per i Bergomi, ho rispetto per i Del Piero, ho rispetto per i Totti, ma Totti poteva guadagnare il triplo e vincere il triplo, però nel suo piccolo, che gli hanno rotto le balle, è rimasto fedele alla sua città, alla sua maglia, perché non rispettarlo? Scusa. Allora, intanto stanno arrivando tanti messaggi, eh? C'è chi dice che il Milan doveva aprire l'asta per Donnarumma, ma guardate che il mercato funziona diversamente, a un anno dalla fine del contratto le carte le dà Mino Raiola e basta. Poi c'è chi dice cosa voleva dire Marotta, che ha detto che non c'è lui dietro il rifiuto di Donnarumma, ma solo per il momento, vuol dire che a determinate condizioni anche la Juve entrerà. Sì, ma Marotta si è zitto, non va a dire, beh, se c'è un campione così sul mercato ci buttiamo anche noi. Ma ti darebbe fastidio se andasse alla Juve? Sì, o non te ne frega niente, sì, sei tradito. Scusa, mi girano le balle a livelli che voi non volete immaginare. Decolli, Ringo, come un elicottero. Vederlo parare contro un attaccante del Milan mi farebbe girare le balle. Senti, prima di salutarlo, mi dai 30 secondi, Giovanni, sì, con Ringo, sì. Per una domanda che non c'entra niente con Donnarumma. Quanto hai goduto per le vittorie del Dovi sulla Ducati gli ultimi due Gran Premi? Tantissimo, perché prima di tutto è italiano. Bravissimo, un ragazzo tantissimo, che mi sembra un passista, poco. È un passista, è un passista, invece ha dimostrato che è anche un campione, no? Guarda, in questo momento che mi chiamate sono a Misano per la Superbike, oggi ha vinto Melandri. Dopo ne parliamo, grande, grande domenica, la terza domenica di fila di gloria della Ducati. Sto tricolore in alto, bello. Noi, io adesso, voi direte, il Ringo è invecchiato, però c'è bisogno veramente per i ragazzi di far vedere che siamo un popolo tosto, che sappiamo vincere lo sport. Noi abbiamo dei politici che fanno... C-A-R-E scherziamo dai l'hanno capito, ecco, abbiamo tutto, almeno nello sport facciamo vedere cacchio, che siamo, usiamo la testa, non ti puoi mettere in mano a Raiola, ma no, che esempio fa, è un bravo, ok, i soldi va bene, ok, teniamoci, la gente ci fa fare i soldi e poi mi chiedete perché gli stadi sono mezzi vuoti dopo, va bene, forza, non ci lega più nessuno alle bandiere. Le bandiere sono importanti nella vita, nella famiglia. La bandiera equivale a un nonno bravo e figo in famiglia, no? Sì, è quella cosa che ti porta dal passato, ti traghetta verso il futuro. Guardate che come siamo poetici. Cavolo. Ragazzi, dobbiamo fermarci perché abbiamo meteo pubblicità. Grazie, Ringo. Ciao, Ringo. Sono trattenuto, ragazzi. L'ho notato. Posso, Ringo, aspetta un attimo. Volevo salutarti perché sei un milanista veramente col cuore e ti trovo una persona coesa e molto positiva. Sì, è anche un po' arrabbiata, abbiamo sentito. Presidente, torni lei, per favore. Torni. Guarda, Ringo, se torno io, sarai tu direttore sportivo a tutto rock. Va bene? Chiusissima. Dai, ci fermiamo, grazie, ciao, Ringo. Torniamo fra un minuto, 800 24 00 24. Vai. tutti convocati. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Convocati. Allora, siamo di nuovo in diretta, 800 24 0024, e c'è anche Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ciao Pierino. Stiamo cercando di contattare, abbiamo appuntamento con Arrigo Sacchi e adesso insomma vediamo di recuperarlo. E siamo in attesa delle parole di Mino Raiola, carissimo Pier, no? Che ha annunciato per le 17, in realtà sta slittando questa conferenza stampa ristretta perché dovrebbero esserci solo gli inviati di Sky, Mediaset e Rai, quindi delle tre principali testate televisive, per raccontare quella che è la sua verità sulla vicenda Donnarumma. Qualcosa abbiamo letto ieri sul Corriere della Sera, senza virgolettati, ma diciamo una ricostruzione fatta dalla parte di Donnarumma e del suo agente Mino Raiola. E grosso modo il centro di tutto era: alla fine si è arrivati alla rottura perché c'è stata troppa pressione da parte del Milan, c'è stato l'ultimatum, c'è stata una campagna orchestrata anche coi tifosi per mettere fretta, per mettere pressione su Donnarumma, e tutta questa cosa qui tutta insieme ha reso impossibile la permanenza. Io non so come la pensi tu su questa parte, so come la pensiamo noi su Donnarumma, l'abbiamo detto insomma. Che a Donnarumma è stata messa pressione da parte del Milan è indiscutibile. Io ricordo forse il primo è stato proprio Montella, non nella penultima, nella terza, ultima puntata di Tiki Taka, adesso non ricordo bene, insomma intorno a metà maggio, e fu il primo a far capire che insomma il Milan aveva un po' perso la pazienza. Però ripeto, poi non è che il Milan non abbia fatto dei passi, il Milan ha fatto dei passi che sono dei passi secondo me di assoluto buon senso, un'offerta in linea con la forza poderosa di un grande giocatore giovane, quindi un'offerta assolutamente competitiva, è un'offerta alla quale Donnarumma poteva dire di sì, ha detto di no legittimamente, però ecco, poi uno non può pensare che i tifosi siano felici oppure che i commentatori definiscano tutto questo come una scelta normale. Poi io, sai, ho fatto sempre un discorso molto laico, cioè lasciando perdere tutti gli aspetti di gratitudine, adesso sentiremo Arrigo Sacchi, abbiamo già letto sulla Gazzetta. Per me, in assoluto, se io fossi il fratello o il procuratore, il mio consiglio da persona che non ci capisce niente sarebbe stato quello di consolidarsi nel Milan. Certo. Ma detto questo poi magari andrà a Real Madrid, guadagnerà il doppio, farà benissimo, glielo auguro pure. Non... Sì, però Pierluigi, c'è anche un discorso calcistico, cioè è un grande portiere, sarà un portiere immenso, ci auguriamo tutti per la nazionale e tutto quanto, però... Cioè, tu vai, qui sarebbe stato il ragazzo amato da tutti, no? Quindi gli perdoni anche qualcosa. Vai al Madrid, al Manchester United, giochi con un'altra pressione addosso, Attenzione. Sicuramente. E anche dal punto di vista strettamente, diciamo, mediatico, dove per mediatico si intende la percezione complessiva dell'opinione pubblica nei suoi confronti, questa è una scelta forte, è una scelta che ovviamente lo espone a dei rischi, ma questo è un ragionamento, ripeto, non moralistico, è un ragionamento proprio tecnico, quindi è chiaro che lui ha fatto, penso che abbia ponderato questa scelta considerando i pro e i contro. I pro sono sicuramente uno stipendio ancora più ricco e probabilmente un club più importante rispetto a quello rossonero in questo momento. Il contro è il fatto di rinunciare a prescindere a un tipo di carriera invece con la bandiera, la bandiera che non è per forza una cosa brutta, perché poi la bandiera significa che comunque a parità di successi è chiaro che se riesci a consolidarti nel tuo club, insomma hai un vantaggio anche d'immagine, quindi Però sono, mi rendo conto, sono discorsi che poi possono sembrare relativi di fronte a uno stipendio che magari sarà il doppio. E sì, però Pierluigi non è detto che poi sarebbe rimasta a vita nel Milan. No, bastava non affrettare i tempi. Allora, esatto. Abbiamo Marco, Antonio e Andrea che ci hanno chiamato 800 24 00 24. Tema è caldissimo, ovviamente. Marco da Modena, Marco. Pronto, buonasera. Vai. A tutti. Concordo perfettamente con Ringo, è il direttore sportivo tutta la vita del... No, questo l'ha detto il nostro Berlusconi. Questo l'ha detto Andrew Mercou, tanto per essere chiari. Lo prendiamo a scatola chiusa. Prima sì. Considerazione, va bene. Molto più rossonero Donnarumma che Fassone. Prima considerazione. Sì, poi però Fassone a settembre sarà nel Milan, Donnarumma non so, Marco, prego. Se il Real Madrid vuol prendere Fassone, glielo diamo. Non è un problema. No, però vuole Donnarumma, il problema è quello, Marco. Non ho capito questo. Allora, glieli diamo tutti e due, e la faccenda sicuramente... Ma perché questo così malumore nei confronti di Fassone? È un professionista del calcio. Glielo spiego. Io ritengo che giovedì sia stata la seconda fase. Mi auguro che ce ne possa essere anche una terza e una quarta. La prima fase è iniziata quando più di un mese fa la dirigenza ha iniziato a pressare in modo, diciamo, arrogante il calciatore. Qualcuno ha scritto anche bullismo. E io concordo. Vabbè, comunque, secondo te ha sbagliato. Poi c'è stata la seconda fase, sì, che è stato lo strappo. Che il giocatore non poteva andare in scadenza. Difatti, anche secondo me. Però aspetta, che devi fare, d'accordo. Vale la pena ricordare, anche perché il Milan... Il Milan non è che avesse tutta questa voglia di aumentare lo stipendio a Donnarumma e di portarlo a 4 milioni e mezzo a salire all'anno. Se l'ha fatto, l'ha fatto perché il giocatore è in scadenza nel 2018 e quindi inevitabilmente questa doveva essere l'estate della scelta per Donnarumma. Non è che l'ha deciso Fassone, è nella logica delle cose. E anzi il Milan si è impegnato con un investimento molto importante. Poi, insomma, ragazzi, un conto è un dirigente, leggevo anche dei tweet, secondo me è abbastanza assurdo, cioè che il Pastore abbia fatto il giro d'Italia da dirigente, non è che vuol dire che sia un traditore. Appunto, ma Pier, ma questa è una sciocchezza, dai. Però mi fate sentire da Marco qual era la fase 3, Marco, se ci sei. Fase 3? Allora, la fase 3 ci arriviamo, io me lo auguro. Vai. Che la fase 3 ci possa arrivare. Nella fase 1, in tutti i casi, gente, non si può dire, se io sono un editore e vengo da lei e dico, caro Genta, il suo contratto è in scadenza, o lei, Genta, firma questa settimana o va in tipografia. Parliamone. Questo non è un comportamento, parliamone. Questa settimana innanzitutto c'è quell'elemento lì sul fatto del parametro zero, che non vale per i contratti di noi giornalisti, ma che vale, io sono collaboratore tra l'altro, quindi in qualche modo ho un tipo di contratto che potrebbe anche ricordare quello di un calciatore, ovviamente con cifre che sono un millesimo, però voglio dire come caratteristiche, nel senso che a un certo punto poi il contratto scade, non ho un tempo indeterminato. Però non c'entra molto, nel senso che una specificità del contratto del calcio sta nel fatto che il cartellino di Donnarumma vale X fino a quando non va a scadenza di contratto. Il cartellino di Pardo, Getto, Capuano vale zero. Tanto per essere molto chiari. ma ci sono dei tecnicismi che la gente deve capire e secondo me magari poi i modi... Possiamo ridiscuterne quanto vogliamo, ma sulla tempistica, cioè che entro qualche settimana dovesse arrivare una risposta, era assolutamente inattaccabile. Abbiamo il traffico, poi Antonio da Reggio Calabria, Andrea dalla provincia di Monza e Brianza. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Convocati. Allora dai, Antonio Reggio Calabria, vai. Buonasera. Allora io sono del parere del parere che non è solo Donnarumma che abbia tutti questi problemi, un ragazzo di 18 anni alla fine, dai, chi è che non l'abbia fatto? E voglio dire che oltre alla famiglia che non è subentrata, ci dovrebbe essere qualche piccola o forse grande responsabilità del dottor Galliani e dello stesso presidente Berlusconi, che io stimo tantissimo, perché non sono mica gli ultimi arrivati, signori, lo sappiamo. Sì, ma che tutti. Responsabilità hanno, Antonio, perdonami, di aver gestito male questa situazione di Donnarumma? Perché lo hanno avuto da 4 anni sto ragazzo, dai. Sì, su. Ho capito, è uscito da adesso, non poteva firmare fino a 18 anni e questo lo sappiamo, non è colpa né di Galliani né di Berlusconi se compieva gli anni il 25 febbraio. Detto questo, quanto credi tu, Pierluigi Pardo, ma lo chiedo anche a Capuano, alla leggenda metropolitana secondo cui sia un dispetto di Raiola ai nuovi proprietari del Milan in omaggio alla sua antica amicizia con Galliani? Questo è un tema e secondo me un dispetto mi sembrerebbe puerile, francamente mi sembrerebbe di sottovalutare Raiola, che ripeto, secondo me il suo lavoro lo sa fare benissimo. Bisogna solo capire se esiste una identità di vedute fra, e quindi di strategie fra assistito e procuratore, ma se questa è la volontà di Donnarumma, poi che Raiola sia il top che puoi trovare se devi andare, se vuoi cambiare squadra ogni 2-3 anni, non c'è dubbio. E ti dico che secondo me, insomma, con Galliani sarebbe stato più facile. Perché i rapporti, fra Galliani e Raiola in questi anni sono stati rapporti, lo sappiamo, di grande collaborazione, quindi è lecito pensare che con Galliani alla guida del Milan probabilmente Donnarumma sarebbe rimasto, comunque insomma non sarebbe finita così, ecco, ci sarebbe trovata una formula eventualmente per farlo partire, ma dopo aver fatto almeno un rinnovo. Andrea, provincia di Monza, poi andiamo rapidamente da Roberto Ungaro che ci racconta cosa è successo oggi a Misano. Andrea, pronto, buonasera. Dai. Niente, io volevo fare una considerazione che è un pochettino più sul personale rispetto ai tecnicismi, ai meccanismi del mercato. Cioè, questo è un ragazzo di 18 anni, io ho un figlio di 18 anni e in effetti essere l'idea è che sembra veramente così preso, portato in giro, la famiglia poco presente e guidato da qualcuno che ha un obiettivo, che lo vede come un prodotto da piazzare e che è al di là di tutto quello che potrebbero essere le bandiere, le ragioni per cui uno sta in una squadra o in un'altra. Un ragazzo di 18 anni non è in grado di discernere veramente tutto quello che è tutto quello che sta dietro ai suoi 2 milioni o 3 milioni di euro in più all'anno, che non gli fanno nessuna differenza a 18 anni, perché li riguadagnerà a 22, a 23, a 25, questo è un campione. Vabbè, questo quindi è vero, ma il problema vero è che ci sono persone come i Raiola che saranno professionisti e faranno benissimo il loro mestiere, ragazzi, come dice Paolo, ma che non hanno nessun tipo di rispetto nei confronti delle persone. Sì, però bisogna, Andrea, perdonami, perché poi noi abbiamo criticato tutta questa situazione. Ecco, però aspettiamo che Donnarumma ci racconti la sua. Donnarumma a 18 anni, e le regole del gioco, ma a parte maggiorenne, le regole del gioco le conosce, penso che abbia capito che aveva davanti a sé una scelta, che era quella di crescere tra virgolette piano in un club importante, glorioso, ma che sicuramente è un po' indietro adesso nelle gerarchie, che sta provando a rinnovarsi, oppure a strappare e fare una scelta di tipo diverso. Cioè, questo voglio dire, lo dico perché stimo Donnarumma. Sì, ma perché aspettiamo, perché dobbiamo aspettare che ci dica anche lui che cosa c'è stato dietro. Allora, abbiamo 3 minuti prima del GR e ci facciamo raccontare da Roberto Ungaro cosa è successo oggi a Misano, che è la terza domenica di gloria della Ducati. Roberto, ciao Giovanni, un saluto a tutti. Ciao Carlo, ciao Gianluca. Allora, una grande vittoria di Melandri, che è molto importante perché ritorna la vittoria il pilota di Ravenna dopo 3 anni. L'ultima sua vittoria fu nel 2014 su Aprilia a Magny-Cours, l'ultima vittoria di un italiano sulla Ducati in una pista italiana come Misano addirittura risale al 2004 con Pierfrancesco Chili. Questa vittoria dimostra tante cose, soprattutto che Marco Melandri non è finito, che ha fatto bene a rientrare. Io spero che questa cosa l'abbia sbloccato, forse il fatto che non c'era il compagno di squadra Charles Davis infortunato l'ha aiutato un po', ma ha fatto una grandissima gara, attaccato dall'inizio, ha superato Torres, è andato a fare le sue traiettorie, le sue linee pulite e ha gestito veramente bene moto e gomme, e soprattutto dimostra il fatto che Ducati può vincere anche con altri piloti e non solo con Charles Davis, che ci mette del suo, fa la differenza, è un po' alla stoner, diciamo, e quindi è un po' una fotocopia della storia della MotoGP per Ducati. Quindi la Panigale è competitiva, ma soprattutto ritroviamo un pilota che sarebbe un grande peccato perderlo, ancora tanto seguito, nonostante i suoi risultati siano stati scarsi negli ultimi anni e nonostante sia stato non in attività per tanti anni. Quindi un bel successo italiano, sulla pista italiana, una cosa che deve dare un po' un'iniezione di energia alla Superbike, perché non sta passando un momento felice, nel senso che c'è poco interesse, poca gente, poco seguito, non c'è l'idolo, non c'è il pilota carismatico, ci sono queste Kawasaki che dominano, che hanno completato il podio, ma oggi non c'è stato nulla da fare con Marco Melandri veramente in palla. Quindi una vittoria importante, soprattutto certo, per ragazzi, che giugno per la Rossa, per Borgo Panigale, bandiere fuori sul balcone. Assolutamente, bisogna parlarne un po' di più, perché quel Made in Italy piccolo che riesce a sconfiggere i grandi è molto importante. Purtroppo la Superbike è poco seguita, come dicevo, però anche lì, e poi comunque non hanno mollato mai perché i risultati non arrivavano, ma la squadra ha lavorato sempre e l'azienda ha lavorato dietro questo progetto. Dovete sapere che le moto sportive sono crollate nelle vendite, quindi è ovvio che gli interessi sono scemati, ma non hanno mai mollato, perché nel DNA di Ducati ci sono le corse, rimarranno sempre, e questa è Ducati per tutti nel mondo. Insomma, noi siamo qui a raccontarlo questo mese di giugno. Grazie Roberto, ciao Robby, a domani. Roberto, ciao, Ungaro, c'è ancora più Luigi Pardo. Allora, la seduta si ferma per qualche minuto perché c'è il GR delle 18, però 800 24 00 24, dopo ricominciamo. Parliamo ancora di Donnarumma, dell'Under 21, e aspettiamo anche di raccontarvi queste parole di Mino Raiola che si fa attendere, la versione di Mino che si fa attendere. Torniamo subito. Tutti convocati. Notte di lacrime, preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere. Una notte da paura, una notte di passaggio, una notte che è anche una festa. Insomma, una notte da vivere e da rivivere. È la notte prima degli esami. Sono Federico Taddia e insieme alla cantante Mariam Mirage vi aspetto martedì 20 giugno dalle 21 alle 24. 3 ore di voci, di sogni, di racconti, di maturandi, di testimonianze, di consigli, di attori, scrittori, artisti, per prepararsi insieme all'esame di maturità. La notte prima degli esami. Una notte che è tutto un programma. Ovviamente su Radio 24. In collaborazione con scuola.net. E ogni giorno sulla pagina web di Cuore e Denari un consiglio pratico per affrontare al meglio la prova. Notte. Il segnale orario vi è offerto da Wafer Lago. Wafer Lago. Dolci emozioni italiane. Convocati. Abbiamo ancora un'ora insieme nell'attesa delle parole di Mino Raiola. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. È arrivata Valeria Bernardi al posto di Roberta Frisani, c'è Giorgio De Luca, autore questa domenica della puntata, c'è Pierluigi Pardo, carissimo Pier, anche tu in attesa, no, della versione di Mino. Sì, beh, diciamo che non è che proprio la cosa mi scaldi più di tanto, però sì, però, no, però è il tema sì, del giorno, però è, sì, teniamo caldo il tema. È il tema del giorno, non c'è dubbio, anche perché ci aspettiamo. Quindi rifacciamo, insomma. Anche tu sei in attesa, no? Sì, cioè, guarda pare che parli Trump, spero di riuscire a tenerla, perché no, ma insomma, oggettivamente parole importanti che faranno domani le prime pagine del giornale. Ma non è in ritardo. Il professor sì, però non siamo a Monte Carlo, quindi non sappiamo cosa sta succedendo, quindi adesso vediamo. Luciano e Giuseppe. Luciano. Sì, sono, salve, buonasera. Luciano, vai. Vado veloce, sono milanista da quando ero bambino, adesso sì. Ho 63 anni, per cui una vita di Milan, però tutto sommato, se Donnarumma ritiene, eccetera, non è un male, ma lo dico subito il perché. Il problema del Milan è fare una squadra equilibrata, è inutile avere un portiere fortissimo e che magari scalpita, eccetera, e poi magari non essere in tutti i settori all'altezza. Seconda cosa, velocissima, ci sono diversi portieri da Perina, Neto, Consigli, Padelli, molto forti, che potrebbero, non si sa mai, essere un'alternativa. Ultima cosa, il ruolo del portiere, mi ricordo quando ero ragazzino, di Pierangelo Belli, non so se voi ve lo ricordate, era il portiere Belli, che era, praticamente era il titolare che poi finì, purtroppo si infortunò, sì. E alla fine insomma ha avuto una carriera praticamente brevissima, intendo dire che non è che puoi tirarla così, però a Donnarumma, ma appunto io me la sbrego, guardi, io me la sbrego così, era più che altro, allora me la sbrego così rapidamente, poi dite quello che volete, era più che altro questione di immagine del nuovo Milan, non si discute valore del giocatore, non si discute niente, era più che altro valore di immagine del nuovo Milan, nuova proprietà, confermi il giocatore simbolo della rinascita, simbolo della rinascita, semplicemente questo. Vabbè, poi dopo che si vincano due Champions consecutive con in porta non un fenomeno, lo dimostra Real Madrid. Chiedo un istante di pazienza anche a Giuseppe, perché intanto sai chi ci ha raggiunto, carissimo Pier. Franco Ordine. No, ciao Franco. Eccomi. Che noi avevamo convocato per commentare le parole di Mino Raiola. Oh, ma che stai dicendo? Dove è finito Mino Raiola? Franco. Io francamente dove sia finito non lo so, che sta parlando in questo momento e quindi adesso stiamo aspettando. Aspettiamo di capire, diciamo, certo. Sì, ma credo che comunque quello che lui ha da dire mi pare che sia già abbastanza noto. Cioè lui dice che questa decisione è stata presa perché c'è stata una eccessiva fretta da parte del Milan, una spinta a bruciare le tappe, che loro avrebbero avuto più tempo per valutare, per concordare in materia economica. Dicono che è vero che è stata fatta un'offerta a Donnarumma, ma ad altri giocatori è stata fatta un'offerta, e anche lo stesso Aubameyang in precedenza, un'offerta superiore. Cazzate, dai su, queste sono sciocchezze, perché i tempi sono giusti, i tempi sono maturi e Donnarumma non mi sembra che il prezzo sia giusto. Piuttosto, quanto credi tu alla tesi di qui sopra, leggenda metropolitana secondo cui ci sia di mezzo la vecchia amicizia tra Galliani, Mino Raiola e magari Florentino Perez? No, guarda, questa è una storia che non c'entra assolutamente nulla, tanto è vero c'entra nulla. No, non c'entra assolutamente, tanto è vero che Galliani tentò durante l'anno precedente, diciamo durante l'anno di transizione, di prolungare almeno per un anno il contratto di Donnarumma, in modo tale da evitare che si trovasse alla immediata vigilia dell'anno sabbatico, e la risposta fu: se ci fosse qui il Milan di Berlusconi, allora se ne potrebbe parlare, ma siccome voi state vendendo, io non posso assolutamente fare un'operazione del genere. Allora, intanto, in attesa di Mino Raiola, vi leggo le parole di Vittorio Rigo, che ai più sarà completamente sconosciuto, ma è l'avvocato che collabora con Mino Raiola e quindi sa tante cose anche della vicenda di Donnarumma. Parlando al giornale di Vicenza, sull'ipotesi di mandare per un anno Donnarumma in tribuna, ha risposto: premesso che ritengo che non accadrà nel caso di Donnarumma, visto che le parti stanno lavorando ad una soluzione soddisfacente per tutti, di fronte a una società che pone in essere trattamenti discriminatori a danno di un atleta, oggi ci sono tutele previste dall'accordo collettivo che possono portare anche alla risoluzione del contratto, ma credo che prevarrà in questo caso il buon senso. Allora, volevo dire che secondo me questa intervista si presta a tre considerazioni, a tre riflessioni. La prima: stanno lavorando a una riflessione concordata, sembrerebbe che il Milan abbia detto a Raiola siamo disponibili alla cessione, mentre invece ufficialmente il Milan continua a ripetere che non è assolutamente così. La seconda è: quando parla di precedenti in materia di tutela di comportamenti discriminatori, noi abbiamo un precedente che fa giurisprudenza, che è quello di Pandev. Sì. Okay. Ecco, bisogna spiegare all'avvocato Rigo che nel caso di Pandev la situazione era clamorosamente diversa, nel senso che Pandev non si allenava con la prima squadra, e quindi quello sì era un atteggiamento di natura clamorosamente discriminatoria, tanto è vero che il giocatore si liberò a costo zero dalla Lazio e maglia rincorsi allo Tito, che per punizione doppia, oltre a non farlo giocare, non lo faceva nemmeno allenare con la prima squadra. Nel caso di Donnarumma è clamorosamente diverso, perché il Milan sta lavorando per comprare un portiere in questo caso i portieri diventerebbero quattro, e cioè sì, il portiere titolare che deve prendere il posto di Donnarumma, Storari che ha appena rinnovato e che è il numero due, e Plizzari che è il numero tre. Quindi a quel punto diventa una scelta di natura tattica, ma, e di natura sì, tecnica. Ma infatti assolutamente non... Ragazzi, c'è una cosa che mi incuriosisce. Posso farvi questa domanda a tutti e tre? Banalmente, quanto può fare il Milan in queste condizioni vendendo Donnarumma? Parlo di soldi. Io penso 35-40. Sì, ma proprio nella migliorità, ma proprio nella, cioè proprio perché deve avere, come dire, devono convincere Florentino Perez che questo è il portiere che può cambiare il corso della storia del Real Madrid. Obiettivamente in questo momento, se trovi una squadra che ha pochi mesi dal fatto che si liberi a costo zero, versa 40 milioni, è proprio perché vogliono fare proprio una donazione. Si è capito. Va bene, grazie Franco. Ciao Ciccio. Ciao. Grazie Franco, ordine, restiamo qui in attesa delle parole. Sì, anche lei aspetta Mimmo. Mi consenta, ma non posso assolutamente esimermi dall'intervenire in maniera coesa, sì, e molto ma positiva. Ma l'ha già fatto prima con Ringo, quindi. No, io lo faccio, sono qua, ho aspettato volentieri, visto che state aspettando anche voi, Mino che parli. Insomma, volevo sapere, volevo far sapere ai vostri gentili telespettatori, radio ascoltatori, ma va bene, lui è abituato con le televisioni, però. Radio video spettatori, sì. Una volta diventato nuovo premier, sì, e dopo che mi avranno confermato a furor di popolo anche, sì, come gran mogol delle giovani marmotte, questa l'ho già sentita, io farò in modo che Cristiano Ronaldo ottenga il passaporto italiano, sì, con un emendamento allo Ius Soli. Ma sai a chi assomiglia Pier questa cosa qua? Tu l'hai sentito il candidato sindaco di Piacenza? No. Stefano Torre. Che dici? Aspetta, aspetta che lo facciamo sentire, perché ho l'impressione che il nostro Berlusconi abbia deciso... Beh, allora lo sentiamo, però poi devo continuare il discorso. Sì, poi sentiamolo. Io voglio portare a Piacenza i mondiali di rugby, la finale di Champions League, voglio portare il Piacenza a vincere lo scudetto e la Champions League, voglio portare Cristiano Ronaldo, che è venuto già a farmi il testimonial, anche se poi i giornalisti non ci hanno creduto tanto, ma in questa ottica io ho intenzione di fare a Piacenza uno stadio da 80.000. Hai capito? È chiaramente un dopo pranzo questo. Un dopo pranzo di quelli pesanti. A Piacenza voglio portare anche Capuano. Cosa dobbiamo portare? Allora ascoltatemi, stavo ascoltando appunto, sì, questo aspirante sindaco. Allora, farò in modo che Ronaldo, sì, ottenga il passaporto italiano con un emendamento allo Ius Soli, sì, farò in modo che ottenga la cittadinanza italiana e che diventi il pilastro della nostra nazionale. Questo è anche fattibile. Ma attenzione. No. Stia buono, Pardo. Sì. No, stavo dando ragione. Sì, però devo finire il discorso. Questo è nulla. Comprerò la nazionale ed il primo acquisto sarà Donnarumma. Mi sono appena accordato, per questo sta ritardando con, sì, Mino Raiola. Stavo parlando a telefono, ma voi non ve ne siete accorti. Nello staff ci saranno delle new entry prestigiose. Sì. Vi anticipo alcuni nomi. Vai. Felice Centofanti, la regina d'Inghilterra. Mamma mia, ragazzi, no, perché oggi, ha detto che pigliava Martira Donna e Domenghini per il piede. Oggi stiamo, aspetta, raggiungendo il record mondiale. Abbiamo capito che non ci siamo. Allora, c'è Giuseppe dalla provincia di Siracusa, anche c'è il Flavio traffico. Sina, anche Flavio Insina, sì, beh, sì, tanta roba. C'è il traffico, poi ripartiamo da Giuseppe. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Convocati. Allora, abbiamo Roberto Baronio che saluto. Grazie Roberto di aver accettato il nostro invito. Roberto. Però permettetemi, perché Giuseppe dalla provincia di Siracusa sta aspettando da parecchio. 800 24 00 24. Prego Giuseppe. Sì, salve. Vai. Niente, io volevo dire una cosa a Donnarumma. Gli è stata fatta una bella proposta dal Milan, lui ha rifiutato. come dice Fassone, pazienza, il Milan va avanti, direi cioè, è inutile ancora comunque continuare a processarlo, è una sua scelta. E da milanista dico andiamo avanti anche senza di lui. Per il dopo Donnarumma vorrei dire, si parla molto di Perin, si dice sia questo fatto comunque molto vicino, ma ho qualche dubbio per i suoi problemi fisici. Non sarebbe meglio puntare un portiere un po' più esperto, magari un usato garantito come Casillas o Reina, e mettere come secondo Plinzari e farlo così crescere pian piano, e magari fra un paio d'anni poter diventare lui il portiere titolare del Milan? Guarda Giuseppe, Casillas te lo escludo, Reina non lo so, Perin sarebbe una scommessa meravigliosa, qualcuno poi dice... Attenzione, perché il Milan di giovani o di scommesse ne sta prendendo tanti e comunque deve arrivare a quel benedetto quarto posto l'anno prossimo, e quindi deve anche mettere delle certezze, però siamo qui e racconteremo. Roberto Baronio, raccontiamo anche con te, con Pierluigi Pardo, con Carlo Genta di questa Under 21 che comincia questa sera il cammino nell'Europeo. Roberto Baronio che abbiamo convocato perché è campione d'Europa Under 21 nel 2000 nella nazionale di Marco Tardelli e fino a un mese fa all'interno delle, come tecnico all'interno delle nazionali giovanili della Federcalcio. Siamo davvero alla rinascita del nostro calcio, Roberto? Bah, io me lo auguro. In questi 6-7 anni hanno fatto un grande lavoro Arrigo Sacchi e Maurizio Viscidi per ricostruire un po' il settore giovanile della federazione, e penso che negli ultimi anni, con la finale dell'Europeo Under 19 l'anno scorso, il terzo posto quest'anno nel Mondiale Under 20 e adesso l'Under 21 che si appresta da stasera a iniziare questo europeo con grandi ambizioni, perché composta comunque da grandi giocatori, io penso che piano piano si stia rivedendo un po' i fasti che ci sono stati un po' anche nei periodi miei, ecco, quindi sì. Siamo tutti un po' contenti di questo perché ce n'è bisogno. Sai, Roberto, la cosa è che, punto primo, è sempre stato molto difficile fare quel salto tra l'Under 21 e la Nazionale Maggiore, perché di Under 21 vincenti forti ne abbiamo avute tante. La seconda considerazione che giro anche a Pardo, che ha insomma se la ricorda per questioni anagrafiche, a me questa Nazionale ha fatto subito pensare a quella di Vicini, te la ricordi? Di Vialli, Mancini, eccetera. Che era praticamente già pronta per passare al piano superiore. Ci passò poi quel Mondiale d'Italia 90, non vincemmo, ma insomma questa è cronaca. Però mi ricorda quelle edizioni lì, no? Perché tanti di questi giocatori potrebbero essere magari anche titolari l'anno prossimo in Russia. Per quanto mi riguarda, il fatto che sia un po' diminuito questo gap che c'è tra l'Under 21 e la Nazionale Maggiore è dato dal fatto che i nostri giovani giocano sempre di più con i grandi, quindi vengono inseriti il prima possibile nelle squadre, nella Serie A e nella Serie B, tanti stanno giocando in Serie B e quindi questo gap è diminuito, quindi è ovvio che quando si arriva all'Under 21 si è quasi già pronti per essere selezionati nella Nazionale Maggiore. Ventura ha fatto un grande lavoro in questo senso, nel senso che ha progettato questi stage per vedere sempre di più questi giovani e per capire quali possono essere pronti. Vediamo l'ultima partita con l'Liechtenstein di qualificazione, che ha giocato molto bene Spinazzola, e è un giovane che ovviamente non è in Under 21 per età, ma che comunque i vari Gagliardini, i vari Bernardeschi piano piano seguiranno. Infatti poi Bernardeschi tra l'altro è anche entrato facendo gol, quindi è una nazionale che può già essere pronta, ma la cosa positiva è che sotto questa Under 21 già crescono altri ragazzi che sono quasi pronti, diciamo, per il prossimo biennio a essere protagonisti. Vedi Locatelli, vedi Favilli, Barella, Vido, tanti giocatori, Di Marco o addirittura Meret, che non è stato convocato ma probabilmente doveva essere nei 23, e quindi secondo me il futuro è roseo, ecco, per la nazionale. Pier. Sì, assolutamente, il lavoro di Visci, il lavoro di Sacchi, il lavoro di Ventura, che comunque ci crede e ha lanciato da subito un segnale anche con gli stage e con le prime convocazioni a questi ragazzi. Ci aggiungo Gasperini, nel senso che secondo me molto di questa Under 21 è stato di nerazzurro, e secondo me insomma la stagione top che ha fatto questa squadra va sottolineata. Però poi alla fine dietro a tutto questo c'è anche proprio una legge del calcio e della vita, e cioè che ci sono ciclici, ci sono corsi e ricorsi, ci sono momenti in cui per una congiunzione astrale favorevole le cose vanno meglio, momenti in cui c'è una penuria di talenti. Noi quindi oggi, brave le mamme anche, brave le mamme che hanno, anche papà che hanno, ci ha dato una generazione di giocatori interessanti. La speranza è che tutto questo talento si traduca, nel discorso che facevamo prima, no? si traduca in una nazionale maggiore vincente nei prossimi 5-6 anni, però veramente la sensazione è che siamo di fronte, poi perché da la Spagna c'è Asensio, ci sono giocatori straordinari, poi adesso li troveremo di fronte, però insomma a leggere gli 11, ma non soltanto gli 11, anche 3-4 che stanno in panchina, perché poi se giochi 4-2-3-1 Pellegrini rischia di stare in panchina, se giochi 4-3-3 Chiesa parte dalla panchina, insomma c'è veramente tantissimo talento, quindi che crescano bene. Non è nemmeno necessario che lo vinca questo europeo, perché noi parliamo, Roberto Baronio, di quell'under dell'86 che non vinse il suo europeo. Non vinse l'europeo dell'88, quello dei grandi, e non vinse nemmeno il mondiale dei 90, eppure rimane una delle generazioni più belle, Roberto. Cioè, con i giovani bisogna anche dire che alle volte il giudizio va dato a prescindere dal risultato. Beh, quello sì, assolutamente sì, perché comunque il giovane ha sempre quell'attenuante che si dice va aspettato, loro comunque sono giovani già in rampa di lancio, ecco, quindi c'è una forte pressione su quest'under 21 di Gigi Di Biagio, perché tutti dicono potrebbero vincere in campo nazionale, internazionale non è mai facile vincere, insomma, quindi se dovessero vincere probabilmente potrebbe passare come la normalità, perché già tutti la danno per tra le pretendenti, ma invece non è così. Se dovessero vincere sarebbero una grande impresa, non per sminuire questi ragazzi, perché anzi sono veramente bravi, ma perché in campo internazionale è assolutamente difficile. Io ho allenato under 18 e under 19 negli ultimi 2 anni, siamo ancora leggermente inferiori alle grandi potenze che possono essere Inghilterra, Francia, Spagna, ma negli ultimi anni ci siamo avvicinati molto. L'under 21 invece, con questi giocatori che stanno giocando certamente nel campionato di Serie B e di Serie A, avranno più possibilità, anche perché coi grandi il gap è un po' diminuito, coi piccoli siamo ancora appena al di sotto, ma stiamo arrivando anche noi con il grande lavoro, ecco, come ho detto prima, di tutti questi personaggi a partire da Ventura e scendere. Io non dimenticherei anche Antonio Conte per il lavoro che ha fatto 2 anni fa. Sì, anche se poi lui all'Europeo ha portato una nazionale di, fra virgolette, vecchietti. Ma Antonio Conte era direttore tecnico delle giovani, certo. Ha messo sicuramente anche lui, ha fatto un lavoro di tessitura, assolutamente sì, assolutamente sì. Io ho un'ultima domanda da fare a Roberto Baroni, un po' provocatoria, perché abbiamo letto le statistiche, questa è una nazionale under 21 che va con quasi 1000 presenze in Serie A, tra l'altro con tante presenze anche nei club, quelli di alta fascia, diciamo, non necessariamente delle provinciali o delle medio piccole. La domanda è: abbiamo questi numeri perché è un momento in cui non ci possiamo permettere il meglio d'Europa, o davvero questi sono ragazzi che se li meritano? La prima che hai detto, secondo me. Roberto. Io penso che sia una cosa di un po' tutte e due, nel senso che porta beneficio il fatto che ci sia un po' di difficoltà a livello economico e ben vengano gli investitori, ma comunque questo fa sì che tante società importanti possono investire appunto sui giovani. Io che lavoro tra i giovani, io che ho lavorato in federazione per questi 2 anni, per noi era una manna vedere giocare questi ragazzi sempre di più, perché poi a noi ci arriva il prodotto finito in nazionale, in federazione, quindi vogliamo che il ragazzo sia già pronto, e più gioca coi grandi e meglio è per noi. A me va bene anche questa cosa qua, il fatto che ci sia un po' di crisi tra virgolette, si possa lanciare prima il giovane. Va benissimo, perché poi questo entra nel giro e alla fine dà beneficio un po' a tutti, soprattutto a noi come nazionale italiana e come italiani. Sì, ma anche perché alla crisi tu puoi comunque reagire in modi diversi, con puoi creatività. Reagire comunque comprando stranieri di seconda fascia, e invece, insomma, secondo me la crescita culturale c'è comunque, ed è oggettiva, ed è anche una crescita ovviamente favorita dal fatto che questi sono ragazzi che ti fanno venire voglia di rischiare, perché il talento c'è, e quindi noi siamo abbastanza prudenti come paese, lo sappiamo in generale e anche nel calcio, spesso andiamo a cercare degli stranieri di mezzo livello, quando invece potremmo avere più fiducia e far esordire i nostri ragazzi prima. Mi sembra che la tendenza stia un po' girando, ed è positivo che giri, ovviamente, ripeto, gira anche perché in questo momento ce ne sono di buoni, fortunatamente, però insomma ci sono dei segnali, secondo me, anche a livello proprio di squadre giovanili, di squadre di Serie A, che sono, ho citato Gasperini, ma anche lo stesso Inzaghi, per esempio, l'allenatore che viene al settore giovanile, e che certamente ha un'abitudine a lavorare con i giovani, il CT della nazionale comunque ha un approccio di quel tipo lì, quindi c'è un insieme di elementi, diciamo, culturali dei nostri tecnici che va in questa direzione, e godiamocelo in attesa di poterci veramente comprare Cristiano Ronaldo e Messi in serenità. Credo temo un po' di tempo. Allora io ringrazio Roberto Baronio, grazie. Ciao, Robby. Grazie a voi, buona giornata, ciao, a tutti. Ciao, Robby. Saluto anche per Luigi Pardo qui dopo. Raiola, aspettiamo. Ci sono le parole del direttore sportivo del Milan Mirabelli, ma ve le diamo dopo la pubblicità. Ti ascolto. Pier, con te l'appuntamento è per domani. Torna Carlo Genta in onda. E invece per tutti gli altri 800 24 00 24, l'appuntamento è tra due minuti. Ci sono le parole del direttore sportivo del Milan Mirabelli, che ha parlato di Donnarumma e di un eventuale viaggio in Polonia per incontrarlo. Oggi lo scriveva il giornale, cioè, quindi la possibilità di incontrare Donnarumma e spiegargli che in caso di ripensamento le porte del Milan sono aperte. E adesso vi leggiamo che cosa ha risposto Mirabelli. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Convocati. E ho promesso le parole di Mirabelli, direttore sportivo del Milan, ha parlato al centro sportivo Wismara, che è il centro dove si allenano le giovanili del Milan. Allora, su Donnarumma ha detto: è un campione in questo momento di proprietà del Milan, che giocherà nel Milan. Sulla titolarità ha detto: dipende dalle decisioni del mister, quindi di Montella. E poi sull'ipotesi che vada in Polonia, oggi il giornale aveva scritto: Mirabelli andrà in Polonia e se possibile parlerà con Donnarumma e gli spiegherà che in caso di cambiamento di idea il Milan è disposto ad accoglierlo a braccia aperte. E Mirabelli in realtà non ha smentito che andrà in Polonia, ma ha detto: ci andrò all'Europeo Under 21 per vedere alcune partite. Quindi non c'è la conferma della possibilità di una strategia su due binari del Milan nei confronti di Donnarumma e di Mino Raiola, le cui parole continuiamo ad aspettare. Magari le aspetta anche Filippo Maria Ricci. Ciao Filippo. Ciao Phil. Buon pomeriggio. Le aspettate in Spagna le parole di Mino Raiola? Beh, insomma, nemmeno troppo, dai. Cioè, non è che sta per parlare Bush. Ma poi hai capito, loro hanno il problema di Cristiano Ronaldo. Ma quindi. Sì, vabbè. Esatto, mettiamo tutto in un certo contesto, dai. Mettiamo tutto nel giusto ordine, no? Cioè, voglio dire, i parametri sono altri. Adesso vediamo cosa facciamo qui con Cristianito. Com'è che in due giorni una vicenda che sembrava impossibile, buttata lì da Abola, che è un importantissimo quotidiano portoghese, ma della quale non c'era traccia in Spagna nelle prime ore, è diventata una quasi certezza? Allora, secondo me qua sapevano, ma forse non avevano tutto l'interesse di scatenare questo putiferio. Questa è la prima ipotesi che, diciamo, ho fatto io. E dopodiché, una volta che l'hanno tirata fuori altri, ovviamente si sono fatti trovare abbastanza pronti, perché da quando è uscita la notizia su Abola, Marca, non so, sul sito aveva 7 pezzi sull'argomento. Per cui li vedo. Era già tutto in forno. No, secondo me sì, era in forno, non volevano tirarlo fuori. E adesso vediamo. Per me Ronaldo ha fatto un grosso errore. Io vedo Florentino Perez, che sta per essere di nuovo eletto presidente, molto molto tranquillo, perché comunque gli ha appena rinnovato il contratto a cifre sontuose, e se lui se ne vuole andare, se ne potrà andare, arriverà l'offerta giusta, e secondo me Florentino, se arriva l'offerta giusta, e per me è molto inferiore a quella alle cifre che girano in questi giorni, cioè i 200 milioni, a me sembra uno sproposito. Per me per molto meno se ne può andare. Però Phil, gli ascoltatori attenti sanno che di questo flirt tra Ronaldo e la città della Tour Eiffel si parla da tempo. Sì, io continuo a pensare che per l'ambizione di Ronaldo venga prima il Manchester United, anche se il rapporto con Mourinho è stato quello che è stato, non granché positivo qua a Madrid, però vedo una squadra più preparata a vincere la Champions, no? Perché di questo si tratta. E tra l'altro è interessante anche per me, noi in questi giorni stiamo parlando anche tanto di Verratti, no? E se c'è davvero questo flirt con Parigi di Cristiano, io non vedo, non so, Verratti è difficile che possa andare via se arriva Cristiano. Anche, cioè, mi vedo Cristiano dire, però insomma, se dobbiamo fare la squadra per vincere la Champions, non possiamo mi date vendere, via no? quello più forte in mezzo, no. Per cui sono interessanti, cioè, è, curioso, è bello questa estate, no? ci propone, diciamo, un calciomercato finalmente, no? Anche divertente, ricco di storie. Io ti dico, per me appunto Ronaldo è in una condizione di, quando tu fai questa sparata che non viene smentita, no? In cui per dire, lui dice sì, me ne vado, oppure lo fa sapere, fa trapelare l'idea che voglia andare via, sai, dopo qua qui stai trattando con Real Madrid, non stai trattando con una squadra mediocre, anche, no? Per cui Florentino Perez è uno che sa il fatto suo, ha voglia di cambiare, ha voglia di ripartire con un nuovo ciclo, no? Adesso è un po' che non fa grandi acquisti. Per me è una grossa tentazione questa, vediamo come va a finire, però io vedo Cristiano, se, a fronte di un'offerta che io, per me, guarda, dico, intorno ai 100 milioni il prezzo solo. Per me sarebbe, vabbè, voglio dire, meno è difficile, cioè a mandarlo via 40-60 milioni non penso, cioè praticamente dire, no. Prendi i soldi e compri Belotti. No. Posso... Belotti costa 100 per gli investitori stranieri. Da clausola sì. Recissoria. Ma io non credo ci possa essere un automatismo Ronaldo l'obiettivo Belotti. L'obiettivo è Mbappé. Io ti dico, l'obiettivo che costa, è quello adesso... che costa un centello pure lui. Esatto, però insomma ha dimostrato qualcosa in più, che non me ne voglia Belotti. No, per carità. E quest'anno ha fatto una grande Champions, adesso vedremo. Però ecco, c'è la voglia di ripartire con un altro, no? Con un altro ciclo differente. E appunto domani Florentino sarà eletto presidente di nuovo per la terza volta, non lo so, vediamo. E poi se poi invece resta, però sai, se tu dici al pubblico, dici io veramente, cioè da parte del Real Madrid non c'è stata nessuna, mentre prima, un anno fa, sì che Florentino avrebbe dato via volentieri Cristiano Ronaldo, però poi ha capito che non lo poteva fare, gli ha rinnovato il contratto e si è trovato con questa primavera immaginifica, no? Meravigliosa di Cristiano Ronaldo, e adesso è in una situazione ideale, perché è Ronaldo a dire me ne vado. Per cui dice sì, te ne vai, però come? A che condizioni? A che prezzo? Dove? Insomma, cosa c'è in cambio? Insomma, è una situazione interessante. Guarda, per me la cosa che mi viene strana è che c'è questo retroscena dell'incontro tra Jorge Mendes e il Paris Saint-Germain 3 giugno a Cardiff, qualche ora prima della finale di Champions, sì, tutto senza che Real se ne accorgesse, sembra veramente strano. Io ti dico, con tutto rispetto per il Daily Mail, però insomma non la vedo, che questa cosa venga fuori da lì mi sembra molto strana. E comunque Jorge Mendes quanti giocatori c'ha nel suo portfolio, voglio dire, possono aver parlato di tante cose, e non lo so, io non la... Ci siamo così un po' tutti attaccati a questa cosa, io sinceramente non la vedo tanto chiara, e adesso bisogna vedere quando, a quello che a noi manca come tempi è quando è scoppiato veramente questo, diciamo, il caos fiscale, perché Football X è di dicembre, adesso diciamo Ronaldo ha fatto questa comunicazione solo adesso, per me questa è una notizia fresca, questa da parte del fisco, oppure, è una cosa oppure che già la sapevano, no? e magari tutto si stava preparando, sì, che è un altro dei sospetti, sì, però non in maniera così determinata, no? Queste sono, cioè, c'è stata una presa di posizione molto molto precisa da parte di Ronaldo, per cui così insomma dico, sono, per me non l'hanno gestita bene, io insomma vogliono forzare la mano, vediamo come va a finire questa situazione. Non l'ha gestita bene chi? Jorge Mendes e Ronaldo. Mendes. No, per me non è stata gestita bene, perché comunque il Real Madrid è in una posizione nemmeno di forza, proprio di ultra forza. Qualsiasi cosa funziona, o gli portano una valanga di soldi e ripartono con un altro giocatore. O resta e va bene così, però resta dopo che hai detto no, io me ne vado, qui non metto più piede, insomma. Non lo so, io dico, in questi, visto che ormai si fa tanta comunicazione, no, tanta, conta anche questo, io non la vedo, per me non hanno gestito al meglio, vediamo come va a finire, no? A proposito di comunicazione, il collega Paolo Paganini della Rai su Twitter ha pubblicato la foto di Mino Raiola che sta parlando, con davanti tre microfoni, Sky, Mediaset e Rai. Come annunciato prima, no? Quindi sì, però è arrivata la prova che questa conferenza esiste. Perché sì, solo con le televisioni, no? Solo con tre televisioni, Sky, Mediaset e Rai, magliettina blu. E quindi aspettiamo di capire che cosa dice. Prima di salutare Filippo Maria Ricci, voglio capire se invece fate le due prime pagine venerdì a Semarca, e al netto di tutto quello che c'è su Cristiano Ronaldo, resta a Madrid la convinzione che Donnarumma sia il prossimo portiere? No, ancora, voglio dire, è sicuro che c'è un interesse, cioè stiamo parlando del portiere del futuro, però io qui faccio c'è un altro tipo di riflessione da fare. Se il tuo procuratore è minoraiola, può anche darsi che il portiere cambi squadra spesso, e un portiere di solito si prende a lungo termine. E adesso il Real Madrid lo voleva cambiare, no? Si erano fissati con De Gea, poi alla fine hanno scelto di tenere Keylor Navas. È chiaro che Donnarumma interessa, però anche lì bisogna vedere le condizioni, non solo economiche, anche un po' di futuro, perché non è che poi si può utilizzare il Real Madrid come trampolino per poi andarsene da un'altra parte, secondo me. Io non la vedo così semplice, e siccome sappiamo che i giocatori gestiti da Raiola spesso cambiano squadra, questo è un aspetto che va tenuto in considerazione. No, però potrebbe essere un affare, Donnarumma in questo momento potrebbe certamente essere un affare, per la ragione che conosciamo. Infatti l'interesse c'è, però non è un interesse così alla cieca. Comunque che Keylor Navas ha fatto un finale di stagione in crescendo, non fa magari sognare, strappare i capelli, però comunque un portiere con cui hanno vinto due Champions, insomma, no, non hanno un porto in questo momento, non c'è, capito, uno scarso, per cui non c'è nemmeno l'urgenza. È chiaro che se si presenta sul mercato, poi bisogna vedere a che prezzo. Prima, no, se devono spendere 40 milioni per uno che si svincola l'anno prossimo, non lo so, io non lo vedo tanto, sinceramente. Però sì. E poi che magari dopo due anni ti pianta una grana, se ne vuole andare, no? Raiola è bravo, fa tanti soldi, lavora bene, però è chiaro che li fa in una certa direzione, ha un certo stile, no, di lavoro. Sì, è scomodo averlo in casa. Più che altro il portiere se lo prendi perché magari ti fa 10 anni, cioè, qui hanno avuto Casillas per quanto? 16 stagioni o 15, quelle che erano, no? Prendi un portiere così di 18 anni, speri che ti resti in casa per 10 anni, 12, 15. No? Sì, non è detto che Minoraiola con domanda. Un portiere non lavori in maniera differente, però non esiste casistica. Io farei questa domanda, è la prima volta che ha un portiere, poi soprattutto un portiere di questo livello, e se l'avessi a tiro gli dico, però ecco, qual è l'idea? Dico, andate in un club e siete disposti a restarci 10 anni? O alla fine i soldi si fanno con i trasferimenti, e quindi spostandolo ogni 2-3 anni, certo. Abbiamo il traffico, grazie Filippo. Ciao Filippo. Va bene, a voi, grazie. Ciao ragazzi. Ancora Filippo, ciao. Maria Ricci che ci fa sentire la Spagna come se fossimo qui. Mamma mia, che meraviglia. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Fate stampare questa foto, che sapete qual è, quella dell'altra sera. In questa foto c'è tutto quello che siamo noi. C'è sofferenza, c'è paura, c'è sudore, c'è sacrificio, c'è tutto quello che ci ha portato a giocarci questa partita oggi. La Serie D è là fuori, 90 minuti, dove dobbiamo dare tutto quello che c'è, ogni energia, ogni forza, tutto quello che è rimasto lo diamo oggi. E dove non arriviamo con le gambe, ci arriviamo con il cuore, perché ce lo meritiamo, perché siamo un gruppo vero, abbiamo mangiato merda tutto l'anno per arrivare qui, e ora bisogna fargli ricredere tutti. Un'ultima cosa, non so se avrò la possibilità di ritrovarci io, quindi mi dovete fare un favore, oggi mi dovete portare in Serie B. Una per tutti! Grande. E il Parma ci è andato in Serie B. Questo era il discorso motivazionale di Alessandro Lucarelli ieri prima della finale contro l'Alessandria. Grande. Saluto Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, che torna nel calcio dei grandi, perché la B è già calcio dei grandi. Roberto, buon pomeriggio. Complimenti. Certo che avere un leader come Lucarelli, no, ma rende la vita un po' più semplice, no? Sì, lo dicevo anche ieri, che purtroppo i giocatori come lui oggi ce ne sono pochi, con un senso di appartenenza che per il raggiungimento dell'obiettivo poi fa la differenza. L'ha dimostrato con gli ultimi infortuni che l'ho avuto, tra cui anche due fratture alle costole, dove ha fatto di tutto per essere in campo da subito. Andava mantenuto, trattenuto, perché a volte esagerava anche nelle tempistiche, no? Però credo che questo sia condiviso anche con tutti gli altri ragazzi, perché un anno così straordinario, comunque duro, dove le pressioni sono tante per una piazza come Parma, non era semplice comunque ottenere il risultato, anche se spesso e volentieri per logico, no, che Parma dovesse vincere il campionato, ma di logico e credo non fosse la squadra più forte il Parma a livello di Roy. L'Alessandria era una grande squadra, ad esempio. Ma spesso e volentieri si sono nascosti tutti sulla nostra rosa, no? Sul fatto che io avessi una rosa forte, ma io di questo ne ero consapevole. L'abbiamo dimostrato nello scontro diretto a Venezia, dove abbiamo imposto il nostro gioco nel primo tempo, dove poi purtroppo siamo rimasti in 10 e hanno recuperato la partita. Sono molto probabilmente il campionato avrebbe avuto un esito diverso, però sì, l'Alessandria lo dimostra il campionato che ha fatto, una squadra fortissima, e mi dispiace per loro, perché per il campionato che hanno fatto avrebbero meritato comunque di andare in Serie B, cosa che noi abbiamo dimostrato per il percorso che abbiamo fatto nei playoff e soprattutto per la prestazione che abbiamo fatto ieri pomeriggio. Come ha risposto Parma e come sta rispondendo Parma? Ma ieri c'è stato in piazza, ci hanno aspettato per festeggiare questa vittoria. È chiaro che anche per loro è stato un anno così un po' traballante, no? Perché comunque sono abituati a palcoscenici un po' più grandi, più giustamente, perché hanno vinto la Coppa UEFA a livello europeo, hanno avuto dei progetti. Non è semplice scendere di categoria e affrontarla nella dovuta maniera. È chiaro che sono categorie totalmente diverse. Ecco, la Serie B già inizia ad essere un campionato più propenso a una piazza come Parma, sperando solo che sia un punto di partenza, non di arrivo. Poi ricordo che negli ultimi anni, e quest'anno ce ne sono 2 su 3, il salto triplo Lega Pro, Serie B, Serie A, non è stato un tabù. No, devo dire che sia la squadra che il Benevento hanno lavorato bene, hanno tenuto la statura della squadra che comunque ha vinto il primo campionato, per poi aggiungersi componenti importanti. Mi viene in mente la squadra che ha preso giocatori come Floccari, sono giocatori importanti. È chiaro che gli obiettivi societari non posso determinarli io, e dico io mi comporterò di conseguenza, però è chiaro che nella vita bisogna essere ambiziosi. Io sono allenato solo da 3 anni e credo di esserlo, ma come credo che lo siano anche i miei giocatori, perché ripeto, nella vita quotidiana bisogna sempre avere un'ambizione. Sono passati 2 anni dai giorni del fallimento, del dramma sportivo di Parma. Si respira ancora o finalmente si può voltare pagina? Beh, o bisogna aspettare un anno per tornare in Serie A e dire quel capitolo è chiuso? No, quel capitolo è chiuso, Giovanni. No, io credo che quel capitolo sia chiuso. Bisogna dar merito alla nuova proprietà, perché quelli che sono subentrati adesso è una società molto fatta di persone per bene, perché comunque pur essendoci 7 soci, non considerando il fatto che adesso il 30% andrà in mano ad altre persone, stanno costruendo qualcosa di importante, quindi gli va dato merito, atto. In 2 anni hanno fatto 2 vittorie di campionato, che non è semplice, ripeto, sia vincere un campionato di Serie D e soprattutto un campionato di Lega Pro, perché se vediamo alcune piazze sono tantissimi anni che cercano di andare in Serie B. Mi viene in mente la Cremonese, che dopo 11 anni credo che abbia ottenuto questo risultato, quindi gli va dato atto di aver cancellato quel brutto periodo. Il buco è stretto, insomma, bisogna passarci. Parma ce l'ha fatta. Io, insomma, sono molto felice. Abbiamo un'altra grande che sta tornando. E come diceva giustamente prima Giovanni, secondo me, una delle candidate l'anno prossimo per fare il salto triplo. Dai. E poi è un cerchio che si chiude. Ringraziamo Roberto D'Aversa. Grazie mister. Grazie mister, complimenti. Complimenti ancora. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Valeria Bernardi, Roberta Frisani, che si sono alternate in regia. Saluto il nostro Andrò Mercù con le sue voci. Dunque, domani tutti convocati alle 14, torna 14. Carlo Genta con Pierluigi Pardo. Invece noi ci risentiamo domenica, tradizionale appuntamento delle 17. Ciao a tutti. Ciao. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Saluti!